neanche mezz'ora di lavoro. Ma mai capito di cosa stiamo parlando? Poi guarda a caso cosa sto dicendo. Mi è capitato di andare in un negozio quando ho cambiato il televisore, come questa marca, che diceva assistenza, bla bla bla bla bla. Quello che c'è, sì, è lui, manca a farla apposta, è arrivato questo anziano, poveraccio, con questo foglietto di carta, incazzato come una bestia, 2 mesi il televisore nuovo, in garanzia, ma cosa volete fare? L'ho portato da un certo personaggio, niente, non gliel'aveva riparato. Quando sono andato e l'ho detto, ma è quel signore per caso che c'è anche la stanza delle sì, è proprio lui, guardi, ci abbiamo proteste dai clienti, abbiamo anche chiamato la casa, ma non c'è niente da fare. Però io non voglio difendere nessuno, questi che hanno l'assistenza lavorano a tariffe di fame quando fanno i lavori in assistenza, per dire, per sostituire una scheda, la scheda di alimentazione, gli danno 10 euro a corpo, se tu ci metti 2 giorni per aggiustarla, ti pagano sempre 10 euro, te lo dico perché noi quando eravamo autorizzati Fiat, tu dovevi avere le tariffe che ti dava la Fiat quando facevano il lavoro in garanzia, erano ridicole, tu a un cliente normale li prendevi 3 volte tanto per andarci giusto di quello che ti davano la Fiat, per dire loro dove c'era un problema su di verniciatura, non è che ti dicono di riverniciare, io vernicio tutto il petto intero, sempre fatto, devi fargli il ritocchino, se devi la panda si romperà, come più di lo sport, non so se ti ricordi le vecchie panda, quelle vecchie anni 90, come se vuoi chiudere lo sportello all'altezza del battente, si formava una lesione nella lamiera, è una cosa fisiologica perché è il corpo, la dilatazione del materiale quando loro facevano la saldatura, la brasatura, noi facevamo un'altra modifica per evitare questo problema, e ti dicevano devi fare il ritocco, ma come faccio a fare il ritocco che viene una cagata, una porcheria, no, devi farlo così secondo loro, e noi per non fare brutte figure col cliente facevamo il lavoro intero, il pezzo intero, e loro calcolavano il ritocco, ti davano per dire un lavoro che ce ne vogliono 200, te ne davano 60 per fare un rapporto. Sì, però tu c'hai ragione, però a quel punto tu dici, come so che molti fanno, no grazie, l'assistenza di quello io non la faccio, arrivederci, grazie, faccio solo occidentale, da privati e così via. Hai detto bene, infatti noi era per questione di prestigio che eravamo la prima della provincia come cosa autorizzata, avevamo fatto la 60, fatto il conto, non ero neanche nato io quando eravamo già Fiat, però c'è da dire che adesso la stessa cosa lo fanno le assicurazioni, noi grazie a Dio non ne abbiamo bisogno, la stiamo lavorando nel piccolo nostro, però ci sono delle carrozzerie per cercare di avere lavoro continuo, si prostituiscono e fanno dei rapporti con l'assicurazione, per dire la telefonaria tua è 40 euro, l'assicurazione io ti pago a 20, a 22, il materiale di consumo anziché pagarti a 20 te lo pago a 11, i ricambi te li fornisco io, eccetera eccetera, alla fine qualcuno fa qualche gioco strano per cercare di coprire i buchi. A me, io non conosco questi prezzi, so che sono comunque alti, mi è capitato di una macchina che l'abbiamo portata perché macchina nuova, perché lei era andata addosso uno sul fianchetto posteriore, infatti hanno dovuto controllare anche le ruote se c'era qualche danno, fortunatamente non c'era niente, non era in garanzia, o meglio era in garanzia la macchina, però essendo un incidente fatto da una retromarcia che è uscito da un posteggio e si è sbattuto, ha dovuto pagare tutto questo qua che ha provocato un incidente, giustamente, e questo pensava, no ma glielo pago io, sì, aspetti che la macchina è nuova, aspettiamo, sentiamo cosa ci c'è il diritto, e quello là ha visto il diritto, 3.000 euro, perché mi confermerai se è vero, poi io non lo so, ripeto, non è il mio campo, ha incicciato la parte di dietro c'era anche lo sportello che fortunatamente non è stato danneggiato, però il montante sì, e quindi mi hanno detto che hanno dovuto, cioè me l'hanno anche fatto vedere per dire, tagliare tutto il tutta la parte fin dove c'è, tu lo sai benissimo, no? Sono a parti assemblate, quindi tutta la parte assemblata, diciamo così, e chiedere alla casa madre di mandargli il pezzo. L'hanno mandato il pezzo, l'hanno installato, risaldato, riverniciato, insomma tutte quelle operazioni che fate. Alla fine 3.000 euro, questo passava a 300 euro. Ma se c'è qualcuno, avanti, devo entrare. Buonasera, buonasera. Ciao Antonio, mi hai sentito? Ciao Antonio, buonasera. Buonasera anche a voi, un Eva che ha fatto oggi? Vabbè, io l'ho preso uno schizzettino leggera quando sono rientrato a casa. Però io ti faccio un discorso, Gianfra, perché molta gente questo discorso non se lo fa. Allora, tutti dicono il carrozziere è caro, io ti dimostro che il carrozziere è molto ma molto più economico di altre attività. E ti faccio un esempio veloce. Innanzitutto, quando tu parli di 3.000 euro di danno, devi considerare cosa c'è di ricambi e cosa c'è di materiale, c'è di ricambio, materiale di consumo e l'effettiva manodopera, perché influisce la manodopera sarà minimo un quinto, cioè massimo un quinto del valore del danno. Dopodiché ti faccio un esempio, io per fare un'ora di manodopera chiedo mediamente, perché poi c'è sempre uno scudo, diciamo, quello che io chiedo all'assicurazione sono 40 euro a ora e non siamo più alti, perché c'è gente che chiede anche 50, 55, le concessionarie stiamo parlando del 60 sino ad arrivare ai 90 euro se vai alla BMW o alla Mercedes. Quando tu vai a tagliarti i capelli, io ti faccio l'esempio di un barbiere semplice, non parliamo di parrucchieri, un barbiere ci piega mediamente 15 minuti a tagliarti i capelli con le forbici, un pettine e al massimo c'ha un rasoio se ti rifinisce le basette. In 15 minuti lui ti chiede 15 euro, 15 per 4 sono 60 euro all'ora, considera le attrezzature e il locale che c'ha un barbiere e poi confronta le 40 euro che c'ha una carrozzeria tra le attrezzature, ammortamenti eccetera eccetera. Fatti un rapporto del genere. Sì, Robè, ma non volevo, io non ho fatto un coso di prezzi, io so che i prezzi sono questi. Vabbè, la panda vecchia magari ha una martellata, la passare da parte a parte, però faccio questi lavori, no? Poi una volta addrezzata era un po' una cosa artigianale, adesso ovviamente non si può più fare perché sono tutte scatolate con le travi, con tutto quello che c'è dietro, travi elettrici, noi parliamo. E quindi questi hanno cambiato tutto, proprio il pezzo interessato a questa botta, che fortunatamente non ha colpito l'interno, cioè il secondo scatolato, ma solo il primo, perché è dubbio. Quindi volevo sapere se 3.000 euro è una cifra normale, ecco, per un banale colpo, anche se ha fatto una bella scicciatura. Non so che cosa hanno sostituito, se hanno cambiato un lamierato, un parafango posteriore, una fiancata, non lo so. Io ti dico, stamattina è venuto un signore per un preventivo di una Golf 8, lo sportello della Golf 8, io sono rimasto a bocca aperta, costa 800 euro, io sono rimasto senza parole, paragonandolo all'importo in lire, sono circa 1.600.000 lire, tu prima ti compravi 30 anni fa una piccola utilitaria usata con quella cifra lì, adesso stanno prendendo uno sportello, c'è stato un aumento dei prezzi dei materiali, cioè dei ricambi spaventoso, perché le materie prime sono state delle crisi per il Covid, è aumentato del 25%, mediamente c'è un aumento anno dall'1,5 al 3% dei ricambi, adesso c'è stato un aumento del 25%. Quando mi ha detto il prezzo io sono rimasto a bocca aperta, ho detto cazzo, stiamo parlando della Golf, non stiamo parlando di un classe S Mercedes o un serie 6 o serie 7 BMW, è una macchina normalissima, una utilitaria medio grande, 800 euro uno sportello, sono rimasto a bocca aperta. Poi il discorso, ci sono tanti fattori, di avere stato carto parti strutturali, perché dice mi ha preso 3.000 euro, ma li ti ha cambiato il parafango che costa 1.500-1.200 euro, prima no, però per sostituire un parafango ci vogliono un sacco di ore, poi magari ha toccato il longherone di dentro, poi non lo so cosa può aver rotto, 3.000 euro adesso secondo cosa rompi non è niente, io ti faccio dei danni di migliaia di euro, dice ma cacchio non ho fatto niente, e inizia a comprare due parafanghi, due sportelli e cose, solo i prezzi arriva a 3.000 euro così. Continua a comprare queste macchine, se continuano. Non è il discorso, continua a comprare quelle macchine. Ognuno prende l'auto che le piace, così come i vestiti e le scarpe. Solo che se poi te ne vengono addosso, finché è colpa tua, tanto quando è colpa degli altri. E qua no, cioè dalla parte posteriore di un SUV praticamente, fortunatamente non ha interessato neanche il portellone. però c'era, hanno dovuto togliere per smontare questa cosa anche il vetro di dietro e tutta la parte, diciamo, del fianchetto sopra la ruota posteriore. Quindi penso che i prezzi siamo lì, considerando che una telecamera di quella marca costa 250 euro, un cavolo di telecamerina. Io non so di che macchina stai parlando, ma ci sono delle macchine che hanno piedi, prezzi fuori mercato, nello stesso gruppo costruttivo, per il gruppo Fiat, tu ti compri un pezzo Fiat, marchiato Fiat, che adesso vabbè, Stellantis, si chiama il gruppo, prima era Fiat Chrysler, FC, adesso si sono uniti con la Citroen, una Peugeot, hanno fatto uno dei gruppi più grandi mondiali, a livello mondiale. Se tu prendi un pezzo Fiat, per dire un paralino di dietro, un retronebbia quello attaccato al paraurti, per fare un esempio, lo stesso fanalino lo montano per dire, nella Panda e lo montano alla Chrysler, il SUV, una macchina qualsiasi della Chrysler, perché ormai stanno scambiando i pezzi, tre volte tanto lo stesso pezzo, cioè cose assurde all'interno dello stesso marchio stiamo parlando. Riprendi Kappa. Già lo so già che sono cose assurde, cioè sono fuori di gamba vero, però molte volte a noi ci è capitata una cosa, la pompa della frizione del Fiat Strada costava di meno alla Fiat che nei negozi di cambio, e poi non era manco la gioia, cioè alla Fiat costava 50 euro, dalle altre parti costava molto di più. È successo l'altro giorno a me una Panda, scusa, il monopolio Gianfra, Panda 2021, nuova, una versione mai vista, non l'avevo ancora fatta, quella ibrida, il paraurti sembrava uguale a tutte le altre Panda, invece è diverso, il muso è diverso, i fari sembravano uguali e sono tutti diversi, il prezzo del ricambio originale c'erano circa 20 euro di meno più IVA rispetto al ricambio di concorrenza che lo riproducono, ancora diciamo una macchina troppo nuova, un pezzo tra l'altro non lo faceva neanche di concorrenza, pur essendo una macchina di grande consumo, la nuova Panda, cioè dei particolari diversi, cioè, ma uguale all'altra, allora ne avevo una uguale del 2021, precisa, perché già tal fuori per sapere cosa cambia, ed erano diverse, ho chiesto il prezzo originale e costava meno l'originale del quello di concorrenza, ma questi sono casi molto molto rari, normalmente c'è un rincaro del minimo 50%, se poi parliamo di marchi di grande movimentazione tipo Punto, paraurti di Panda da vecchio, di Golf, di Audi, quelle macchine lì c'è anche l'80-90% di differenza, e quella stessa casa che lo produce, o parliamo di Parabretta, dei Cristalli, lo producono come primo impianto, e lì ci sono prezzi di grandissima differenza. Sì, sì, c'è anche quello. Guarda, io ti faccio un esempio, noi abbiamo anche una macchina piccola per città, diciamo, il prezzo costa pochissimo, guarda, intorno ai 10.000 euro, nuova ovviamente, e l'abbiamo portata a fare il tagliando, il primo tagliando, e hanno chiesto 360 euro, questa macchina non c'ha neanche 20.000 km usuali, ne ha molto di meno, 15.000, una cosa del genere. E mi ha detto, quanto? 360, ma siete fuori di testa. E io, vabbè, allora vi facciamo lo sconto di 40 euro, 320, dai. E abbiamo detto, vabbè. Poi ci siamo guardati in faccia, la macchina l'hanno fatta, sì, l'hanno controllata, eccetera, eccetera. Però questo è l'ultimo tagliando, quindi io non capisco che guadagno c'è a farti questi importi, perché alla fine ti controllano loro, noi, perché tutto l'altro cosa c'è da fare, l'acqua dei cristalli, 360 euro, c'è stato, forse l'hanno data dopo quanto, 5 ore, perché c'erano altre. Dopodiché abbiamo deciso che tagliando a questa macchina non se ne fa più, cioè si lascia così, ti controlli l'odio tu, ti controlli l'acqua tu, al primo guasto prenditi la rampi, asco, perché è troppo, tra l'altro ti informo che nelle notizie di servizio la benzina in continente è già a 2 euro e passa, qua ancora è a 1.600 classe 99.007, praticamente in qualche posto i 1720, ma io penso che per il nuovo anno saremo tutti oltre, abbondantemente oltre i 2 euro. E non c'è spiegazione perché il petrolio è stabile, addirittura è diminuito rispetto a certi periodi, molto molto diminuito, è tutta una mangiatura, è iniziato dai petrolieri, industrie farmaceutiche, eccetera, eccetera, è tutta una vergogna. Vai, altro poi dico una cosa, io continuo il discorso, avanti. Già ho saputo le bombole, già aumentate. Guarda, che macchina è, scusami Gianfra? La porti da un altro meccanico, la porti, ti costa la metà, ti costa molto molto di meno. Non ci vogliono 300 euro per fare un tagliando, Un altro meccanico con un centinaio di euro lo fai. Sì, ma noi abbiamo anche un meccanico di fiducia, sempre quello, che se la guarda lui ti dice se da fare questo si fa, se l'altro non c'è bisogno. No, non si fa, anche perché questa fortunatamente non è un'auto come le altre, zeppa di elettronica, c'è anche una radio, si può dire vecchio stile, giusto per metterci la moderna, però vecchio stile, senza grandi pretese, non c'ha poca elettronica, e quindi chiunque ci può mettere mano, anche un ragazzino. Ma per dire, quello che ti voglio dire, robe, alla fine uno dice, quella dove ti porta, dappertutto, devi scendere a Cagliari, vabbè, non ci andrai a 180, ci andrai a 110, tanto se vai a quella velocità poi ti zacca l'autovelox. A un certo punto la gente dice, ma chi me lo fa fare? E quindi non vai più dal meccanico, come hai detto tu, non vai più dal barbiere, ti compri una macchinetta, non vai più da quello che vende componenti elettronici perché sono troppo cari. Insomma, inizi a tagliare, ad arrangiarti online e così via. Io ho visto ad esempio, sono andato da Bevari, no? Perché qualche anno fa, cioè 2 anni fa, in pieno Covid, mi si era saltato il computer di casa, usando tra l'altro per lavorare. E cosa ho fatto? Ho guardato un po' e ho preso da Amazon una ditta che c'è, credo in Sicilia, che ricicla computer. Ho pagato 200 euro, mi hanno mandato un computer con 8 giga di RAM, a disk da 500, guardando il prezzo da nuovo di questa affare che è ancora in produzione, costava oltre 800 euro, ma l'hanno dato a 200 perché era riciclato, perché sono quelli che ritirano dalle aziende tonnellate di PC e piano piano li rimettono a posto, o da uno ne fanno, o da due ne fanno uno, ma per dire, se questi continuano così, chiuderà tutto, perché la gente non ci va più. Ah, che impegni, te lo compare il Gindu, ti compri gli attrezzi giusti e te lo fai tu tagliando, come faccio io alle macchine sempre, la macchina di babbo e cosa. Io me lo posso mettere a biglietti in luce, la roba. Allora, il discorso è questo qua, le concessionarie hanno delle grandi spese, per dire un litro d'olio mediamente, a meno che non prendi un olio sintetico, lo paghi intorno ai 10 euro, 8 euro al litro, dai, un olio buono di marca, con tutte le specifiche, eccetera, allora ti mettono 18 euro, un litro di olio, se ce ne vogliono 2 litri e 50, allora te ne fanno pagare 3 litri, minimo, per non dire anche di più. Filtri dell'olio, lo stesso filtro marchiato Volkswagen, per dire, lo trovi identico di primo impianto, se tu lo paghi 10 a Volkswagen lo trovi a 3, lo stesso identico filtro, parliamo di roba di qualità, non roba scadente, perché anche di lì ci sono dei discorsi da fare tra gli oli e i filtri. La manodopera, anziché farla pagare, che la manodopera media è dai 35 ai 40 di mercato qua, loro ti fanno pagare 60, 70, 80, anche 90 euro a ora, e ti calcolano anche i 10 minuti, per dire, se tu vai da un meccanico, diciamo quelli privati, quelli artigiani, dai, lui dice quando ci ha messo, beh dammi 20 euro per fare il cambio d'olio, quelli ti chiedono quanto è 0-10 minuti, più mezz'ora per fare quello, per controllare la buca, tutto quanto, ti calcolano l'ultima virgola e ti mettono 1,36 ore a 90 euro, allora si manopra, perché lui conto quanto ti vendono solo di manopra, che magari il meccanico ti chiede, uno di quelli liberi ti chiede 20-30 euro di manopra per aggiungere, fate il conto quanto ci sale il conto, filtri, perché filtro olio, filtro aria, e poi se ti cambiano dal filtro abitacolo, se ti cambiano il filtro del gasolio, eccetera eccetera, alla fine iniziano a guadagnare solo i ricami. Adesso vi faccio un discorsetto, se volete aspettare 2 minuti vi racconto una storiellina a riguardo delle case costruttrici, perché io ogni tanto si va ai seminari e cose del genere, ci raccontano un po' di queste cose. Allora, tenete presente, le case costruttrici, a parte la Mercedes che è un po' più alta come guadagno, lavorano con la media di guadagno dell'8% di tutte e quasi tutte le macchine, con la Mercedes oltre tutto le spese di concessionarie, pubblicità eccetera eccetera, la macchina se a loro li costa 100, hanno 12%, dall'8 al 12% di guadagno, ed è pochissimo, perché poi c'è il guadagno del concessionario, del venditore, la provvigione, tante cose, alla fine questi sono i guadagni sulla vendita di una macchina. Poi quando ci sono le campagne rottamazione, molte volte ci vanno anche di sotto, perché devono cambiare modello, là vanno in perdita, e ci sono tanti marchi che sono in perdita, vendono delle macchine in perdita anche del 30%, la Smart la stavano vendendo in perdita del 30% rispetto al costo di produzione. Loro si hanno fatto un giro di conti, noi dalle macchine non ci guadagneremo mai perché non conviene, guadagniamo dai ricambi. Il rincaro dei ricambi è di media dal 300 al 400% di ricambio, parliamo di prodotto, di se tu loro li costa 100 lo vendono a 400 mediamente, per cui hanno detto noi dobbiamo calcolare le rotture dei materiali, un po' come stanno facendo le case nell'elettronica, i telefonini eccetera eccetera, studiano i carichi di rottura, vedono un altro cristallo, le serrature sono calcolate che devono durare per la, esattamente per la durata teorica della garanzia, perché ci sono 2 anni di garanzia, un altro cristallo deve fare nell'arco di 2 anni di durata mediamente diciamo 10 milioni di movimenti, se riesce calcolano il carico di rottura di quel supportino dell'altro cristallo al 10.002 si rompe, è calcolato matematicamente, tutte le macchine indistintamente, non esiste una macchina che non c'ha questo discorso, non gli bastava quello lì ancora, allora hanno fatto, ti è presente il numero uno su queste cose la BMW, come tecnologia di studio di rompersi le cose, la più grande studio è in Spagna, ve lo dico perché tutte queste cose quando si fanno i corsi ci seguono, e non gli bastava quello, allora dice non stiamo guadagnando troppo dai ricambi, e allora si costruiscono gli attrezzi specifici, si mettono un dado, una vite, una rondella, qualunque cosa per dire, per fare la fase della macchina, si fanno le dime, la chiave specifica, una forma particolare di dado, te la tengono per 5 anni perché è brevettata, e te la vendono, una chiave costa 3 euro, 150, 200, 300, 400, il prezzo che vogliono loro, perché te lo faccio un esempio, una chiave Panduit che ancora non era brevettata, cioè era ancora brevettata, allora l'avevamo pagata in lire 450.000 lire, se tu non avevi quella chiave non potevi togliere una cosa da una macchina, a quel punto dopo 5 anni lo stesso oggetto l'ha pagato 37.000 lire, e questi sono i rapporti che stanno facendo le case costruttrici. Sì, torniamo a bomba, e quindi l'utente alla fine quando prende coscienza di queste cose dice, ecco, fate una cosa, mi faccio il biglietto del tram, perché chi c'ha la pensione non aumenta, chi c'ha gli stipendi, soprattutto se sono dipendenti, gli stipendi sono fermi praticamente tutti da 10 anni, e quindi questi vogliono succhiare l'acqua da un posto asciutto già di per sé stesso, per di più massacrati da bollette di tutti i generi e tipi, e quindi è ovvio che alla fine la cosa si spezza, no? Riprendi a tu. Per carità, poi più macchine sono complicate peggio è, cioè ti crepano, ti mettono prezzi assurdi, ti mettono. Comunque l'auto A mi hanno detto che non è molto caro, una volta ci abbiamo portato lo strada e non ci hanno fatto pagare, quando era ancora nuova la macchina, non ci hanno fatto pagare molto, ritagliando. Popolino! Ciao! Allora, intanto ti continuo io a rispondere. Allora, la Fiat è un marchio abbastanza economico come tariffe eccetera eccetera, prova ad andare alla Mercedes o alla BMW e poi mi ritorni la risposta. Non dico di andare alla Jaguar, macchine di quel livello lì, o la Rover, se c'è una Range Rover, prova a entrare in concessionaria e poi mi dici cosa ti chiedono per fare un tagliato. Lo so, Guglia, cioè, allora sono un faro di quel BMW che c'aveva il figlio mio principale, adesso ce l'ha. Allora, c'è solo un faro, mi mai costava 1.000 euro quasi, solo un faro a LED. Cioè, mamma fa fuori di capo, Gemmo. Se lo vai alla Ford a farti fare il tagliato, la mazza viene in varia. Ah, si ladrone, mi. Allora, io dico sempre una cosa, il primo tagliando, preferibilmente, per dire, se uno la cambia spesso la macchina, è bene farlo alla concessionaria, anche rimettendoci soldi, perché per dire, se la cambi ogni 2-3 anni, dici, no, la macchina è stata tagliandata dalla casa ufficiale, e va bene. Tutti gli altri dico, cercatevi un bravo artigiano, onesto, e andate da quello lì, perché non sono più bravi, perché tanto a parità di prodotto non stiamo facendo cose particolari, delle indagini per capire un guasto, eccetera, eccetera, stiamo facendo un semplice tagliato. Va, te ne dico una veloce. Alla macchina della mia compagna faceva un rumore, l'ha sempre portata lì, mi sempre, da quando l'ha comprata. Tu conta la macchina del 2006, quanti anni ha? 12 anni, così, 2006, no, già se dicevo, 16 anni ha quasi, 15 anni, sempre lì l'ha portata. Diciamo, sempre questo rumore, quando andava in quello faceva un rumore così strano, no? Ho detto, ma riportati la vostra macchina alla Ford. Beh, abbiamo fatto un giro con il responsabile dei meccanici, dice, questa macchina ha un problema di cambio, qua e là, bum bam, bingo, saltano le marce, vabbè, beh, alla fine gli hanno detto che ci volevano roba di 2000 euro perché dovevano scendere giù il cambio, controllarlo, c'è un problema di cambio qua e là. Ho detto, ma facciamo una cosa, chiediamolo a un mio amico, questo mio amico meccanico che è bravo, Giuseppe, che è lì in via Venezia, molto bravo, veramente serio, onesto. L'ha portata lì, la macchina, perché saltavano le marce, non aveva olio nel cambio, e faceva, quando andava in a girare verso sinistra, verso destra, no? Tipo in culo, faceva un rumore così, no? Perché non c'era olio nel cambio, non si sono accorti loro, non si sono accorti, non c'era olio nel cambio. Tu pensa la differenza da 650 euro che gli ha preso il meccanico Giuseppe a 2000 rotti euro che gli hanno chiesto loro, disonesti, miserabili, bastardi e ladri. Purtroppo la meccanica è un campo abbastanza difficile, se tu non sei esperto, non conosci il difetto e non hai passione, dico, non diciamo altro, non va da nessuna parte, perché io ti racconterei episodi di gente che non ha idea di preventivi, ma non di 2000, da 5000 a 500 euro, stiamo parlando di cose in concessionarie. Purtroppo io non voglio parlare male delle concessionarie perché ho tanti amici, gente lì, però molte volte ci sono dei capi officina o degli operai che non una futiluda e dice c'hanno lo stipendio fisso e non gliene frega niente. Ci sono anche dei capo officina veramente bravi e preparati, tanto di cappello, ma ce ne sono tanti che non hanno nessuna cognizione di causa, lo mettono di lì, beh, da oggi sei capo officino, non si fanno i corsi, non fanno niente e sono così dei giovanotti che li mettono a dirigere, non sanno manco come si svitano le candele. Ma guarda Robert, il giro che abbiamo fatto, grande, grande, lui si accorgeva di questo rumore, io lo sentivo, che era a fianco, perché stava guidando lui. Guarda, lascia per tutta la benzina che mi ha frazzato, la macchina la tirava per vedere un po', boom, ma tante cose. Secondo me sono disonesti, cioè per cambiare un bulbo, si chiama bulbo, quello c'è sotto, quello che praticamente ti comanda la retromarcia, ti fa accendere le luci di dietro, 80 euro, costa 20 euro, cioè 60 euro di mano d'opera, ti rendi conto? Un attimo ci ha messo 5 minuti di orologio, sono un bel ladri. Posso, il concessionario deve stare attento, ma io te lo dico perché ci lavoro continuamente, ho clienti, mi raccontano tante storie, eccetera, eccetera, bisogna stare molto attenti. Però devo dire che la meccanica con i tempi moderni, se non ti aggiorni non ne cavi i piedi, ci sono dei difetti, ormai ci sono le diagnosi e cose del genere, ma se tu non conosci la meccanica elementare, molte cose che non riesci a ragionarci, è come un bravo elettrotecnico, se uno non conosce anche la teoria del coso, non è a cambiare le schede, tu adesso vai, come ha detto Gianfranco poco fa, vai da un'assistenza, c'è il problema, ti si rompe, ti cambiano la scheda, non è che ci pensano, ma come mai si è bruciata, cioè cercare di ragionare all'indietro, niente, è così, cioè, pochissimi ce ne sono di di gente veramente capace. Io ce li conto sulla punta delle dita, di meccanici veramente capaci che sanno come intervenire. Ci sono un sacco di praticoni, gente che ce li mettono così, eccetera eccetera. E idem ancora di più nell'elettronica, nella riparazione di elettronica, lì c'è proprio una giungla, a parte che di lì non c'è nessuno che fa corsi eccetera eccetera, di lì ancora di meno, perché andare a fare corsi per dire della Sony, Panasonic, ci vogliono soldi, non è che vengono qua a farteli fare corsi, normalmente li fanno sempre in grandi centri in continente eccetera eccetera. Così nel campo nostro, anche nella carrozzeria, si deve aggiornare continuamente. Vai Gianfra. Sì. Scusa. Claro, beh, il discorso è questo. Cioè, sei un meccanico, sei responsabile. Cioè, lui comanda tutti i meccanici che ci sono lì. A non accorgerti che la macchina non ha olio nel cambio. Cioè, cosa la fai? E quello ti sto dicendo, molti sono messi così senza criterio, perché il bravo meccanico, io ho sempre detto, il bravo meccanico lavora con tutto il suo, non si mette dipendente, quello è il principio più importante. Se tu sei veramente bravo, sai lavorare, ti fai una clientela e vai avanti da solo. Quelli che sono di lì, il 90% è gente che non è stata capace, pizzini d'andera magari di qualche officina meccanica, dice vieni qua, a parole sono i più bravi di tutti, poi li metti al dunque e lasciamo perdere, non dico tutti, ce ne sono molti. Giuseppe è già stato travagliato, già lo conosci pure tu. Giuseppe, che abitava vicino a casa, non lo conosco, Giuseppe Quintus, è bravo Giuseppe, è onesto. E vedi la differenza, da poco ha cambiato le partite della macchina, quanto euro ha speso? Vabbè Luca, non parliamo di prezzi, perché i prezzi si fanno confrontando le stesse cose. Cioè io prendo una pastiglia Valeo, Ferodo della Brembo, eccetera eccetera, eccola lì, me la confronto con montata in concessionaria o montata in un artigiano. Dobbiamo vedere, perché lei mi ha chiesto 300 euro per fare la frizione dell'appunto. Io dico cacchio, un regalo ti ha fatto. Ma quell'altro me ne chiedeva 600. Sì, ma vediamo cosa ti metteva l'altro, perché se ti metto una frizione Valeo completa di disco e spingidisco di marca, e poi ci sono quelle radridisi che costano un quarto, che non valgono niente, e la musica cambia. Giusto, per ogni cosa. Per esempio, ti faccio un esempio, per cambiare un display, ci sono quelli da 20 euro, lascia il tempo che trova, ci sono quelli che costano 60-70, un motivo c'è. Naturalmente poi ci sono i ladri che ti vendono dei pezzi che costano 20 euro e te li vendono per 60, però se uno è pratico di tutte le cose, ci sono, è una giungla, guarda, io i fari delle macchine, adesso li stanno facendo anche in Corea, noi eravamo leader mondiali in Italia e siamo ancora a livello mondiale, tutte le principali case costruttrici e i fornitori sono italiani, cioè il primo impianto, sono tutta nella zona dell'Emilia Romagna, ci sono le più grandi fabbriche di manufatturiere, di accessori, dai macchine. Lo stesso faro, per dire, se lo prendi marchiato Marelli costa 100, lo prendi Fiat e marchiato Fiat costa 150, poi ci sono i Prasco fatti in Corea dove a 30 euro, 40 euro, dici ma questo fa, la gente ormai vuole anche queste cose qui, anche non sono fari omologati, la plastica è scaccina, nel senso al primo sole diventa gialla, la parabola dove metti la lampadina non corrisponde al fascio di luce, tu vai a fare l'orientamento e ti trovi un faro completamente sparato, però la gente ormai sta guardando anche i soldi in tasca e te lo chiedono loro, ma non mi interessa, guarda, l'ho trovato su internet, cosa vuoi fare? E ti deve arrangiare. Lo so, è un casino, dai, avanti Roberto, ma avanti anche tu. È così, No, io preferisco prenderlo buono, cioè magari che non corti assai, ma buono, no, non è meglio di questa roba strana. Avanti Gianfra per affischi. No, è che sto piazzando un apparecchio su un amplificatore, su un apparecchio che è partito, e siccome questo amplificatore è praticamente invisibile, è a livello di quanto ti posso dire, 2-3 mm, e quindi è impossibile operarci. Io ne ho fatto uno nuovo. Il problema è che quando parlo entri dentro l'amplificatore, perché i fili sono lunghi, non è schermato, eccetera, eccetera, eccetera. capito? Io, però io ritornando al discorso nostro, il lavoro del carrozziere è il lavoro dove si può fare più di tutti, per cui bisogna stare anche attenti anche ai carrozzieri. Io sono di parte, perché a me molte volte adesso mi faccio un giro, fate un giro, io lo dico già in partenza, io sono caro, per cui il mio preventivo non lo considerare, però dico mettimi a confronto a parità di qualità, perché io per dire il pezzo posso raddrizzartelo oppure dare due colpi e metterci lo stucco e risparmio ore, posso usare dei fondi che costano per dire 30 euro al litro e ce ne sono certi che costano 12 euro, posso usare dei trasparenti che costano 60 euro al litro e ce ne sono che costano 23 euro al litro, ci sono tante cose per risparmiare, uno è convinto che sta risparmiando, dice ah quello mi ha detto 400, sono andato da quello me ne vuole 200, con la 400 è ladro, no, perché quando a me mi fanno questi confronti io ti dico 5 carrozzerie, gli do 5 nomi, tu vai e fatti il giro di queste 5 e poi confrontiamo i preventivi, è inutile che tu vada quello che lavora in campagna senza pagare le tasse, in nero, oppure quella carrozzeria che c'ha un buco, che c'ha poche spese o, e che lavora solo lui e fa sia carrozzeria che verniciatore, oppure quell'altro che c'ha due operai in nero, ho detto mettimi a confronto con officine qualificate, a quel punto facciamo i confronti. E così anche la meccanica, perché la meccanica di dire lo stesso bisogna stare attenti cosa ti metto. Vabbè, no. Casino. Comunque la Ford sono proprio disonesti. Vabbè, riprendete che devo fare una cosettina qua, mi manco in ascolto, riprendi il bombolino. Sì, e se entra la BMW alla Volkswagen o alla Mercedes, già ti bazzi nei vento via. Ma quello è a rischio e pericolo tutto, hai voluto la Mercedes e pedala, hai voluto la BMW, la bicicletta e pedala. Uno poi, il problema è che ci sono le marche poveri, cosiddetto Dacia per fare un esempio, che sono marche molto ma molto economiche, di scarsa qualità eccetera eccetera, che devi fare a fare l'assistenza e paghi quanto una Clio di una categoria superiore oppure una Megane o eccetera, di marche di cosa, la Ferrari è uguale a quelle lì, e tu vai una cosa, una Dacia Duster, una macchina per dire economica, l'hai pagata poco e ti fanno fare lo stesso prodotto uguale a una cosa, a una Megane. No, ci avevamo il Renault, ci avevamo, e te ne è passata la gana già, macchina che andava, sì, è buona, quello che vuoi, ma me ne passa la gana. No. Che avanti, ti vuole entrare, tu hai già fatto? Sì, ho premuto per sbaglio, un altro pulsante. Mamma, era bagno di sangue quando si operavano questi, con questi giocattoli. Sì, ma ti ho detto poi come andrà a finire, anche perché adesso tra una scusa all'altra aumenterà tutto, non sappiamo quanto è il bollo, non sappiamo quanto saranno le assicurazioni a fine d'anno, quindi inizierei a fare, io ce lo sto già facendo, guarda, se non fosse perché la macchina mi serve anche per altri motivi, ma fare un pensierino a utilizzare il tram oramai. Sì, vabbè, noi siamo viziosi, io sono il primo, io con la macchina, senza macchina morirei, cioè non, tutta la volta che io ho preso l'autobus, vabbè, a parte quando sono andato fuori all'estero, lì era per altri discorsi, non avevo la macchina, dovevo prenderlo per forza, però forse mi pare in terza geometria, stiamo parlando 30 anni fa, una cosa del genere, l'unica volta che ho preso un autobus, no, sempre, posso andare a 100 metri, prendo la macchina, sono vizioso da quel punto di vista, però c'ho una macchina vecchia, nel senso, tenuta bene, affidabile, facendo le corna naturalmente, sempre con le giuste manutenzioni, c'ha 320.000 km, una macchina che sono più che soddisfatto, non me ne frega niente di cercarmi macchine nuove eccetera, perché questa finché cammina mi tengo questa, li faccio tutti i tagliandi che devo fare, le piccole manutenzioni, non sono tipo scenografico che si compra una macchina che poi sta senza mangiare per pagarsi le rate o la benzina, non me ne ha fatti nulla, la macchina mia del 2001, c'ha 20 anni, ha fatto a ottobre, gli ho fatto la revisione l'altro giorno, 323.000 km, gli faccio le gomme, tutte le cose che devo fare, le ho cambiato quattro gomme l'altro giorno, per cui i freni li avevo appena fatti, non me ne ha fatti nulla a me di avere una macchina scenografica solo per dirmi guarda quello c'ha la Golf, l'ultimo modello, la BMW serie X1, eccetera, non mi interessa. Io guardo solo l'utilità e la funzionalità delle cose, non mi interessa nient'altro. Fai bene, ma guarda, io a me mi è passato in testa per un attimo di prendere Guardi, io a moto sono allergico, no? Nonostante vada in bicicletta, però per un motivo oscuro la moto non le posso neanche toccare. Quindi stavo pensando, in realtà una moto a tre ruote, di quelle a tre ruote, che devi solo guidare senza preoccuparti di strampare, di quelle elettriche. Adesso non so se ci siano quelle che sono scooter per i plumbi, oppure se ci sono quelle solo per utilizzo quasi senza patente, tipo ciclomotore, però elettrica. Ci stavo facendo un pensierino, perché a memoria dell'esperienza della bici elettrica, che praticamente mi fa fare, volendo, anche 60-70 km tranquillamente, vabbè, ti devi anche pedalare, però insomma, se me ne fa anche 30 in una carica in città è più che sufficiente. E se c'è un range di utilizzo di qualche decina di chilometri può essere interessante. Naturalmente costano queste cose qui, e a livello qualità prezzo ti compri una macchina con quei soldi e c'è con una macchina a quattro ruote. Ma io dico, comprare macchine nuove è da incoscienti, secondo me, con i tempi che corrono non conviene comprare male una macchina di 3 anni, che è ancora nuova secondo me la macchina, perché ormai i motori sono eterni, qualche cosa di sospensione, qualcosa di elettronica, qualche problema trovi così, però genericamente, generalizzando, sono tutte macchine, più o meno tutte vanno bene, non ce ne sono bisogni, per dire, di qualche anno fa, e la paghi meno della metà. Una macchina di 2 anni la già perde 30-40%, se la prendi di 3 anni dal 50% in su perde. Poi non parliamo di macchine grosse, quella ancora di più, se hai pagato a 50 alla fine dopo 3 anni la paghi 15, dai, come minimo. Le utilità le macchine tengono ancora un po' più di mercato, per cui io dico, meglio trovare un bell'usato di pochi anni che comprare macchine nuove, a meno che non sia un tipo che ha le possibilità, o uno di quelli che si prendono la macchina ogni anno, ogni 2 anni, ma a quel punto consiglio le macchine a noleggio a lungo termine, ti paghi la rata ogni anno e c'è la macchina nuova ogni anno, ogni 6 mesi, dipende dal contratto che fai. Sì, non riprende nessuno. Luca è rimasto. Sta aspettando. Vabbè, se uno c'è la possibilità, se la compra e basta. Qualcuno dovrà pur comprare una macchina nuova. Sì, le macchine nuove normalmente le comprano tutte le case di autonoleggio. Quelle le cambiano mediamente dai 6 mesi a 1 anno, perché le girano continuamente. E lì conviene comprare le macchine, perché adesso sono super controllate, nel senso, non è più come prima, ti davano dei bidoni, macchine mal tagliandate, adesso sono tutte garantite, perché sono macchine, ci sono queste flotte, c'è gente, dei venditori salonisti, che loro prendono queste flotte, perché comprano 10 Toyota Yaris, 4 Corolla, 5 punto, le prendono a blocco da queste autonoleggi, e riescono a prendere a prezzi allucinanti, e ti dice, macchine di 1 anno e le paghi alla metà di quanto costa. Sì, quello è vero, le occasioni ci sono, però il problema non lo risolvi, perché il costo della macchina, anche nuova, non è tanto quello di comprartela, perché se la desideri la compri e basta, è quello di mantenerla, capito? E adesso, rispetto agli altri anni, sta diventando una cosa un pochino complicata. Pensa che spendevi, io di norma al mese, solo per andare al lavoro in ufficio, spendevo intorno tra i 2 e i 250 euro. Adesso che sono stand-by, penso di dover spendere dalle 300 alle 350 in questi momenti. Quindi capisci che inizia già a non convenire. Poi, se ci aggiungi il bollo e tutte le altre cose che ti piazzano sopra, perché magari tra 2 anni, tra 3 anni non sarà più i russi, sarà perché ci sarà l'euro 8, l'euro 9, e con quella scusa si aumenta il bollo e così via. La macchina non vale niente, ovviamente, quindi bisogna iniziare a fare tutto un giro di conti, perché come detto, i soldi sono sempre quelli, da qualche parte devi pur tagliare, no? Certo, è normale, Adesso c'è la mania di questo cacchio di macchine elettriche. Io sono abbastanza informato perché oltre che lo faccio per lavoro sono appassionato, la gente è convinta di queste macchine elettriche. Allora facciamo il discorso delle macchine di prima. Io ho preso l'ultimo quattro ruote, c'è il confronto tra l'Alfetta e la Giulia, Alfa Romeo Giulia, e c'è il prezzo di un Alfa Romeo Alfetta degli anni 70 rapportato ad oggi. Lo sai quanto costa, rivalutando la moneta e tutto quanto, quanto costerebbe oggi l'Alfetta? Costa 16.500 euro rapportato al costo di allora, di quanto è aumentata la roba. La Giulia, come si chiama, l'Alfetta, la stessa macchina della stessa categoria, diciamo totalmente diversa, con tecnologie migliori, con più accessori eccetera eccetera, il costo è intorno ai 35.000 euro, mi sembra, così, quella versione lì, la Turbo TS Turbo GTS, quella Turbo di coso. Il consumo di un'Alfetta dell'epoca era mediamente di 8 km con un litro, questa qua mediamente ne fa intorno agli 11, e poi ci sono tutte le spese, manutenzione eccetera eccetera. E poi c'è una macchina elettrica, una di quelle che vanno per la maggiore. Allora, se tu questa macchina elettrica la carichi, c'è l'autonomia, è una delle migliori come autonomia, pare che sta intorno ai 500 km dichiarati, però ne fa intorno ai 400 di autonomia, questa è una velocità normale, senza, cioè una cosa media. Hanno fatto il conto col contatore di casa, tu attacchi la spina del garage, tu c'hai 3 kW e mezzo a casa e te la metti in garage a caricarla. Per avere una carica completa ci vogliono 52 ore utilizzando i 2 kW e 3 dell'impianto a 3 kW e mezzo, perché diciamo la notte tu la lasci così. Praticamente ci vogliono 52 ore per caricarla, prima cosa. Se poi ti metti un contatore potenziato, una trifase eccetera eccetera, anziché 3 kW e mezzo te lo metti da 12 kW, si riduce, vedete, da 52 ore lo puoi portare a 15-16 ore, un affare del genere. Se ti fa un impianto da 150 kW in corrente continua, in un paio di ore la ricarica, e la gente continua a comprarsi le macchine elettriche. Ma scusa un attimino, ma si può ricaricare con la luce normale di casa senza portarle? Io sto parlando, tutti hanno un impianto a casa, a meno che non c'hai un contatore particolare, una famiglia media c'ha 3 kW e mezzo a casa, una macchina la notte la metti in garage, che è mezzo scarica o scarica, diciamo se scarica completamente ci vogliono 52 ore per ricaricare una di quelle gruppo di batteria di una macchina di questa, che è una delle più efficienti, che fa più chilometri di tutti, leggera eccetera, riesce a fare le migliori prestazioni. Con un impianto di casa da 3 kW e mezzo, che tu ne usi 2 kW e 3, perché devi lasciare il frigorifero attaccato, magari c'è lo scaldabagno, qualunque cosa, ne usi solo 2 kW e 3 di questi 3 kW e mezzo, ci vogliono 52 ore per caricare un asset di batterie quando sono scariche. Tu mi dirai, scariche non ci arrivo mai, però se io scendo a Cagliari e ne salgo, le scarico completamente le batterie, anzi non è detto che riesci neanche a ritornare. Allora ti devi fare un contatore da, diciamo, da 12 kW, 15 kW, e riduci i tempi da 52, per dire, se te lo porti un 16 kW te lo fai in 15 ore, e alla fine dici, devo pagare la corrente di casa perché il kilowatt aumenta se aumento il contatore, e per cui devo aumentare, farmi fare una linea più grossa eccetera eccetera. O se no devi farti andare nelle colonnine, ci sono le colonnine da 150 kW in corrente continua, e quelli carichi, per dire, in 3 ore. Ma chi è che lo scemo che c'ha una colonnina da 150 kW a casa? E la gente stanno pubblicizzando l'elettrico, ed è una presa per i fondelli. Diciamo comunque che è una tecnologia ancora giovane, e quindi deve ancora crescere. Probabilmente il futuro sarà quello, ma io più che a quel tipo di cosa, che va benissimo per le biciclette elettriche, va benissimo per, anche per gli scooter in città, sarebbe veramente un po' cassano. Per le macchine che sono pesanti naturalmente va meno bene, ma per le macchine, stavo guardando proprio oggi, credo che l'abbiamo detto, ci sono la possibilità tra qualche anno di avere motori a idrogeno. L'idrogeno sicuramente è inesauribile alla portata di ogni nazione. L'unico problema è sempre stato quello dell'altissima infiammabilità. Penso solo alla fregatura di tutti quelli che in continente ci avranno la macchina a metano, che il metano, diciamo, è uno dei principali gas causa del buco d'ozono. Comunque, l'idrogeno, vedi, di lì costituisce una speranza, e l'altro buco di scappamento è acqua. Allora, hai detto la cosa giusta, il futuro è l'idrogeno. L'elettrico, sino a quando non ci saranno le batterie, allora, il motore elettrico a livello di resa, di prestazioni, non ha uguali, perché c'è una resa del 95-96% rispetto al motore termico, che quello c'è, ridissipa un sacco di calore, ci vuole cambio, frizione. Il motore elettrico è come un trapano, schiacci e acceleri e vai. C'è prestazioni assurde, non hai usura perché il motore è eterno, è il motore di questi elettrici. Il problema sono l'accumulo delle batterie, ancora non hanno inventato, ci stanno provando tutte le case costruttrici leader della Tesla su questo tipo di discorso, però ci vuole sempre un accumulo enorme, devi usare corrente, non corrente, tensioni altissime, perché sennò non va da nessuna parte, ci sono migliaia di volt all'interno della macchina ed è molto ma molto pericoloso, infatti quando si lavorano con quelle macchine devi saper fare quello che devi, dove mettere le mani, perché sennò c'è il rischio che muri folgorato, infatti un po' di gente si mette a toccare, ci sono dei corsi specifici per fare lavorare su quel tipo di macchine lì, fino a quando non inventeranno le batterie, magari ci saranno pure, non lo so, noi non sappiamo niente perché stanno sviluppandone continuamente, come hanno fatto con quelle dei cellulari, hanno iniziato prima nickel cadmio, adesso sono al litio, hanno ridotto le dimensioni, le prestazioni le hanno aumentate di gran, però per il momento per far camminare una macchina ci vuole un accumulo di corrente enorme ed è ancora, siamo ancora in... I motori esistono da 100 anni, i motori elettrici ne sono sempre più efficienti. L'idrogeno, io l'ho visto, le macchine a idrogeno, è una cosa fuori dalla realtà rispetto ad adesso. Consumo zero, perché non hai lavori con l'acqua. L'unico problema può essere il discorso esplosivo, però ci sono delle tecnologie che permettono di risolvere questi problemi, come il discorso del GPL, dice c'è una bomba, però esistono i sistemi di sicurezza. Cosa vuol dire? Io ho visto le macchine a combustione interna alimentate a idrogeno, che ho visto proprio la Fanca e la Piaggio, l'ho visto i poker eccetera, e c'hanno dei rendimenti, rimaniamo a bocca aperta, semplicissimi da fare. Io lo volevo fare sulla macchina mia perché funziona soprattutto sui diesel, la resa di questo discorso dell'iniezione di idrogeno alla camera di scoppio, cioè delle rese impressionanti con niente, mentre la macchina totalmente a idrogeno è un po' più complicata la costruire. Di lì ci sono dei boicottaggi delle industrie petrolifere, delle case petrolifere, che non hanno nessun interesse, e poi tutto l'indotto, perché se tu ti fai una macchina a idrogeno è tutta un'altra tipo di tecnologia, tutti quelli che producono radiatori, frizioni, cambi eccetera eccetera vengono automaticamente escluse e basta. Il problema può essere quello lì, fallirebbero una marea di aziende. Sull'idrogeno neanche il raffreddamento, cioè, è vero? Niente, no, è tutto un sistema completamente diverso, è un tipo di produzione di energia diverso, completamente diverso. Tra l'altro è assolutamente pulito perché c'è acqua, vapore acqua dallo scarico. Infatti, e poi può essere facilmente fatto dall'energia solare o eolica, quindi stiamo a vedere. Allora, io signore adesso devo andare via, che è già tardino, dai, grazie alla chiacchierata, come al solito sempre piacevole, ciao Gianfranco, ciao Antonio, ciao Luca e eventuali amici qua sul canale 10, sicuramente c'era qualcuno in ascolto, ciao ciao, cuore te da parte mia. Ok, ciao Rob, adesso metto in moto la mia macchina con i cristalli di litio, che hanno un'autonomia di circa un secolo, e quindi me ne vado in giro per lo spazio, ciao ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao. E io invece l'avevo pensata più bene, prendo una macchina elettrica, la vado, quando sono in deposito me la carico lì, a me non spendo niente. Poi ti acconza il principale quando vado la bolletta. Ciao Antonio, anche io sto andando via, buonanotte, alle prossime. Ciao ciao, era un problema mio. Antonio non paga pantaloni. Ciao pa. Buonanotte, mi tengo con burro, ciao ciao. C'è sempre già cucato, ma ciao ciao. A proposito, tanto prima di andare via, confermi che da 15 e 35 adesso. Portata, ma presa? Sì, sì, sì, via. Vai tu a prenderla. No, noi siamo a 33. Ah. Buona sapersi, ma tra poco aumenterete anche voi sicuramente. No, già ce l'hanno aumentata, già. C'è un altro aumento addirittura. No, perché a me è venuta 35, da 15. Ok, va bene, buonanotte, alle prossime. Ciao, ciao, buonanotte, non ho il 33. Poi adesso c'è quell'altro aumento, non lo so. Ok, buonanotte.